English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Per questa puntata di English 24, che sarà molto cinematografica, parliamo di un film che è in uscita sui nostri schermi perché ce ne parlano direttamente i protagonisti. Diana, che è Evan Rachel Wood, e Maureen, Eva Murri, si incontrano nei corridoi della scuola, diventando in meno di un anno amiche per la pelle. Non ancora maggiorenni, fanno molte esperienze ai limiti. Un giorno, apparentemente come tanti, nell'istituto succede qualcosa. È la trama di Davanti agli occhi, che è in uscita, dicevamo, proprio in questi giorni. È il nostro argomento di oggi a English 24. Ce ne parla subito il regista di origine ucraina, Vadim Perelman. The story opens in a high school bathroom. Two girls, best friends, one blonde, one brunette, are in the bathroom. And they're bantering, they're best friends, and brushing their hair, and just kind of generally hanging out. And they suddenly hear gunshots. Screaming, running. And they say, oh my God, I think it's this person from our class. And just then he bursts in with a gun, points the gun at them and says, I'm only going to kill one of you. Which one should I kill? And from there, the story goes forward to one of those girls, which is the blonde, who lives an idyllic life, a perfect life. She has a professor, a philosophy husband, very handsome. She has a beautiful, lovely little daughter. She has a great house, flower gardens that she tends to. And you realize that through a series of really well-placed clues and reveals and things like that, that things are not quite the same as you thought they were. Allora Giulia, il regista ci ha spiegato un po' di cosa si tratta, cos'è questo film e cosa succede, soprattutto all'inizio di questo Davanti agli occhi. Sì, perché deve essere tutto un po' un patchwork, no? E di flashback, la trama tu l'hai raccontata, però in realtà il film opens in a high school bathroom, cioè la scena iniziale, quindi quella su cui il film apre, è nel bagno di un liceo. Un high school, sappiamo che è il modo americano, non inglese, per indicare la scuola secondaria, quindi il liceo. Ci sono appunto questa Diana e questa Maureen, e loro sono molto amiche. Sì, they are best friends, no? Sono in inglese appunto si dice, non si mette anche l'articolo, quindi they are, come in italiano, cioè non si mette l'articolo, they are best friends, sono migliori amiche, come diciamo in italiano, quindi si stanno, fanno le cose che fanno le amiche in bagno, per esempio, soprattutto se sono adolescenti, brushing their hair, si spazzolano i capelli, presumibilmente lunghi, e just kind of generally hanging out. Questo è proprio un modo, ci mette dentro, kind e generally, quindi semplicemente potremmo dire to hang out vuol dire così, passare del tempo, si trastrullano in bagno. Sembrerebbe un po' l'inizio di quei film americani ambientati nei college, due amiche che si spazzolano i capelli e pensano a passare del tempo piacevole. Ma succede qualcosa. Sì, sappiamo che insomma in bagno ci sono sempre un po' il luogo dei pettegolezzi nelle scuole, e però loro a un certo punto sentono screaming and running, cioè che sentono dall'esterno che tutto questi to scream vuol dire urlare, quindi screaming usato con il famoso ing, ne facciamo un sostantivo, quindi sentono urlare e sentono correre, running. Succede proprio all'inizio, loro si rendono conto che al di fuori di questo bagno in cui si erano appunto magari chiuse a spettegolare è successo qualcosa di grave. Intuiscono, perché probabilmente insomma le persone problematiche a scuola forse più che in altri posti le individuiamo subito, quindi I think this person from our class, quindi intuiscono che that person from our class, della nostra classe, e qui è inteso come proprio il gruppo di persone che sono insieme in tutte le lezioni. E just then he bursts in, e proprio mentre finisce di dirlo, di intuire che è quella persona, entra, to burst in vuol dire proprio entrare spalancando la porta e entrando come un uragano, ecco. E points the gun at them. To point the gun, quindi puntare la pistola, esattamente come in italiano, e lui punta la pistola alle due ragazze, at them. Non diciamo esattamente cosa succede, perché lo stesso regista ci dice from there the story goes forward, cioè da quel punto noi andiamo parecchio avanti, e cosa vediamo? Quindi facciamo un leap forward, leap non lo dice lui, lo diciamo noi, ma vi ricordate tutti quantum leap, quindi un punto, un salto in avanti, e la troviamo con una delle due ragazze. ragazze, presumibilmente, a handsome husband. Handsome significa molto bello e viene quasi sempre usato per gli uomini, quindi appunto husband, handsome husband, un marito bellissimo, una beautiful daughter, quindi non una handsome daughter, ma una beautiful daughter, una figlia altrettanto bella, una great house, una casa stupenda, e poi ha flower gardens she attends to, e dei giardinetti, perché sono dei piccoli giardini di fiori, quindi dei giardinetti she attends to, che di cui si occupa. Di cui si occupa Diana, che è una delle due che appunto ritroviamo molti anni dopo. Una vita che sembra perfetta, ma è compromessa da quel ricordo. Diana è interpretata da Uma Thurman. Evan Rachel Wood and I play the same person, as she is the teenage me, and me as the grown up who has a child and a husband and is struggling with issues that mature women sort of deal with: family, husband, community, the repetitiveness of it all. Is it what you dreamt it would be? Is it not? You know, it's sort of a meditation on a character. Allora, lo abbiamo detto, le due ragazze erano interpretate da Evan Rachel Wood e Eva Amurri. Evan Rachel Wood and I, quindi lei e io, play the same person. To play sappiamo che vuol dire giocare, ma anche interpretare, quindi interpretiamo la stessa persona. She's the teenage me. Lei è la teenager, la versione teenager di me stessa, the teenage me. Però è cresciuta e quindi ha dei problemi diversi. Sì, questo è un po' l'interpretazione che dà Uma della Evan Rachel Wood cresciuta, quindi quella che è diventata lei, ed è una donna struggling with issues mature women sort of deal with. Quindi to struggle vuol dire combattere, with issues è una di quelle parole jolly, nel senso che sappiamo che vuol dire anche il numero di una rivista, per esempio, no? The November issue of English 24, però vuol dire anche argomento, quindi lei sta combattendo con quegli argomenti, con quei temi che le mature women, che le donne mature, sort of deal with, devono in qualche modo, sort of, avere a che fare e fronteggiare. Family, husband, quindi famiglia e marito, e poi dice community, che forse da noi è meno presente come aspetto. A volte non ci rendiamo conto, sì, noi pensiamo forse di essere un po' magari i campioni della solidarietà o del fatto che parliamo tanto, che ci troviamo, che facciamo molto le comari. In realtà negli Stati Uniti c'è questo aspetto della community che è fortissimo, per esempio nei quartieri dove poi si fanno cose insieme una volta alla settimana. Tutto questo viene identificato come appunto la community life. Su cosa ha lavorato Uma Thurman? Lei ha parlato anche un po' del fatto che abbia dovuto lavorare, meditare su questo ruolo. Dice proprio it's sort of, ecco, a Uma piace molto questo sort of, perché prima ha detto sort of deal with e adesso dice it's sort of a meditation on a character. È una sorta di un certo tipo di meditazione su un character, che sappiamo che non vuol dire carattere ma personaggio. Ma perché Uma Thurman ha deciso di interpretare questo film? Ce lo spiega lei stessa. I loved the script and what attracted me to it was it was beautifully written. It has a dreamlike kind of like a sort of puts you in a sort of it puts you into sort of a trance reading it, and it had sort of wonderful character observation, especially the dialogue between the two young women. Reading the scenes between those two young women characters and the way they spoke to each other and the way they observe things reminded me of my own life, and reminded me of that rich, painful experience of being kind of on your own as a teenager, and what it just felt like from that vantage point so strongly. It just came to life for me. Lei dice subito: questa sceneggiatura mi è piaciuta tantissimo. I loved the script. Si è innamorata, quindi ha amato the script, appunto, quindi la sceneggiatura. E poi cerca di spiegarsi, dice what attracted me to it was, quindi to be attracted to something, essere attratti non da qualcosa, come diciamo noi, ma a qualcosa. Dice a, punto primo, punto A, beautifully written, era scritto in modo splendido. Una sceneggiatura da sogno, potremmo dire. Quindi dreamlike, e questo è tra l'altro questo like, che appunto vuol dire come, lo possiamo attaccare praticamente a qualsiasi cosa e diventa appunto un'unica parola che significa come un sogno oppure come una qualsiasi altra cosa. Ti rapisce proprio questa sceneggiatura? E di nuovo torna al sort of, le piace proprio, quindi dice puts you in sort of a trance reading it, quindi ti pone in una sorta di stato di trance mentre lo leggi, reading it. Non si risparmia con gli aggettivi. Uma Thurman addirittura parla di wonderful character of observations. Quindi wonderful di nuovo, no? Abbiamo questo modo di attaccare il full alla fine di una parola e farne quindi un aggettivo. Beautiful è il caso classico, vuol dire pieno di bellezza, quindi bellissimo. Wonder è il miracolo, wonderful diventa appunto miracoloso, quindi ci sono delle meravigliose, impressionanti, stupefacenti character observations, cioè le cose che fanno questi personaggi, le osservazioni che fanno questi personaggi hanno veramente colpito Uma Thurman, che quindi dice ancora: reading the scenes, quindi leggere le scene between these two young women characters, quindi questi due personaggi, queste due giovani donne, insomma basta, si è innamorata del film e... si è proprio rivista anche nella parte che lei non ha interpretato ma che ha interpretato Evan Rachel Wood, cioè quella dell'adolescente, la teenager. Quindi ancora prima di interpretarlo, appunto leggendo lo script, dice it reminded me of my own life, quindi mi ha ricordato, anche qui noi diciamo ha ricordato a me, mentre in inglese si dice ricordare me, quindi reminded me of my own life, e quindi of that rich, painful, di nuovo come prima, pain, dolore, painful, quindi pieno di dolore, dolorosissima, quella ricca ma dolorosissima esperienza che è l'essere teenager. Tutti sappiamo quanto effettivamente è formativo, ricco in quel senso, ma anche tremendamente difficile essere adolescenti. On Your Own, mi ricordo anche il titolo di una famosissima canzone, On My Own, di Nicca Costa. Non tutti sanno cosa significa On My Own, essere da sola, ma nel senso devo farcela con le mie forze, quindi on your own, essere appunto da soli, essere, sapere che l'unica persona su cui puoi contare sei tu. E questo vale sempre, non solo per un teenager. Queste erano delle interviste che ci hanno dato un brevissimo assaggio di questo film Davanti agli occhi, che sarà nei prossimi giorni nei cinema italiani. Noi concludiamo qui la nostra puntata di questa settimana. C'è sempre l'appuntamento in edicola con il nostro English 24 cartaceo con CD per tenerci sempre in esercizio con l'inglese. Da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.